Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo da un lato delle polizze RC Auto, perché? Perché come ogni anno si è tenuta l'assemblea delle compagnie assicuratrici e insomma dice l'ANIA sono in calo i prezzi pagati sull'RC Auto, aggiungiamo noi restano però in media più alti di 180 euro, non dico il doppio ma quasi rispetto alla media europea. Si pagano 250 euro in Europa in media per la polizza RC Auto, in Italia se ne pagano in media 410, scesi a inizio marzo 410, e questo è un tema. Chiaramente l'ANIA risponde, ne parleremo con il suo presidente, attenzione, in questo paese pesano le frodi, soprattutto al sud, che sono altissime frodi, che significa danni finti ma soprattutto danni che hanno sempre sinistri, danni alla persona, e poi mancano le tabelle, il tabellario per i riferimenti sui danni quando tu hai a che fare con categorie di professionisti. È stato chiesto, è stato promesso, non c'è, e quindi poi diventa una battaglia legale che arricchisce solo o principalmente gli avvocati, aumenta i costi di sistema che vengono scaricati poi su noi, obbligati a fare la polizza RC Auto. Obbligati, ma non tutti, perché aumentano anche gli italiani di 400.000 in più rispetto a un anno prima che guidano senza assicurazione. Sono la stima di quasi 3.800.000 veicoli, pari all'8% dell'intero parco circolante. Ne parleremo più avanti, dicevo. In apertura, come sempre, anche le altre notizie in breve, e poi il tema, vista la paura presa, o meglio, i timori espressi ieri dall'Istat su un PIL che nel secondo trimestre potrebbe crescere poco, ma addirittura fare un meno 0,1. Beh, attenzione, su questo gli unici elementi che vediamo ancora molto significativi, positivi, vengono tutti dall'export. E oggi il Ministero dello Sviluppo Economico, assieme all'ICE, che è l'Istituto per il Commercio con l'Estero, ha presentato un rapporto in cui emerge chiaramente come il commercio mondiale, gli scambi globali di manufatti, quindi non parliamo di servizi finanziari, stiano aumentando molto più del PIL mondiale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono ripartiti i flussi di scambio. Tu puoi avere un PIL che cresce del 2%, ma se, come da stima, l'anno prossimo gli scambi cresceranno del 4,2 e nel 2016 del 5,5, vuol dire che è ripartito anche il commercio mondiale, perché teoricamente tu potresti avere un PIL mondiale che cresce ma un commercio che cala o che sta fermo, se i paesi fanno crescere il PIL ma consumano quello che producono. E perché hanno interesse il dato sul commercio? Perché laddove aumenta il commercio aumentano anche le possibilità per le nostre esportazioni. Occorre però avere uno Stato e un sistema dietro, non fatto di camere di commercio con sedi all'estero, regioni con sedi all'estero, commissioni all'estero. Poi arrivano anche altri soggetti, che le banche giustamente hanno le loro sedi di rappresentanza all'estero, poi arrivano le missioni di sistema, poi c'è l'ICE, poi c'è la SACE, poi c'è la Siemens. E uno a questo punto, un imprenditore, non sa a chi rivolgersi. Noi da anni chiediamo il famoso sportello unico per l'Italia all'estero, cioè un luogo fisico, come fa la Germania, come fa anche la Francia, non in cui accorpare soggetti che fanno cose diverse, ma in cui avere un unico riferimento, per cui poi il funzionario ti dice: bene, lei deve rivolgersi alla SACE, deve rivolgersi alla Siemens, deve parlare con l'ICE, deve parlare col consolato, deve parlare con l'ambasciata, ecco, possibilmente eliminando il ruolo delle regioni, che ho visto che è previsto anche nella riforma. Le regioni non devono fare promozione all'estero, dai, devono fare promozione della loro regione sugli investimenti esteri, e ci mancherebbe, ma la promozione all'estero la fa il paese quando ci riesce, non la può fare la regione X, perché poi diventa in molti casi il modo per portare le famiglie, i parenti, le amanti, o comunque farsi un viaggio fuori porta, altro che promozione. E in questo metto dentro anche l'Enit, che vorremmo capire che fine farà. Ne parliamo tra poco con il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha la delega anche alla promozione del commercio con l'estero, e con il presidente dell'ICE Riccardo Monti. La borsa come va? Più 1,40% Milano, più 0,60% Francoforte, più 0,80% Parigi, più 0,80% Londra e più 0,70% l'America. Va molto bene oggi Piazza Affari, soprattutto sul Monte dei Paschi, più 7,5%, e poi ST Microelectronics più 4,58%, UbiBanca più 4,51%. Oggi Monte dei Paschi ha rimborsato 3 miliardi e 400 milioni di Monti Bond, va particolarmente bene, ma ripeto, bene anche UbiBanca. Milano è la migliore dopo 7 giorni di calo. ST Microelectronics, dicevamo, più 4,50%, Banco Popolare più 4 come G-Tech, Fiat più 3,5 come Intesa San Paolo, Mediolanum più 3,30, Pop Emilia Romagna più 3,1, Unicredit più 2,80, Pirelli più 2,40, Azimut più 2,20, Vuo Duty Free più 2, Pop Milano più 1,70, Buzzi Unicem più 1,5 come Enel e Mediobanca. Fronte opposto, TOZ meno 2, Luxottica meno 1,20, Campari meno 1, Atlantia meno 0,70%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. A BNP Paribas, il colosso, il colosso francese BNP Paribas si è detto d'accordo a versare il pagamento di una multa alle autorità americane da 8 miliardi e 830 milioni di dollari per aver violato le leggi americane che impongono sanzioni ad alcuni paesi come Iran, Sudan e Cuba. Il gruppo bancario comunque ha detto in una nota che presenta una situazione di solvibilità e liquidità del tutto solida, che gli permetterà di assorbire le conseguenze delle sanzioni imposte dalla giustizia americana, e continuerà a proseguire la sua attività rispettando pienamente l'insieme della regolamentazione in vigore. Poi si è inserito anche in questa vicenda il leader russo Vladimir Putin, che ha accusato gli americani di aver fatto pressioni alla Francia per bloccare la fornitura delle navi da guerra Mistral alla Russia, promettendo in cambio di togliere poco alla volta o ridurre le sanzioni americane ad alcune banche francesi. Questa è un'ipotesi di Putin, devo dire, non è un'ipotesi peregrina. Saperlo, vedremo. Oh, dacci oggi il nostro Schäuble quotidiano, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il falco del governo Merkel, ha messo in guardia rispetto all'eccessiva liquidità presente sul mercato a livello globale, incontrando la stampa estera a Berlino. C'è troppa liquidità, ha detto Schäuble, la BCE non può risolvere il problema della crisi, la politica deve farlo. L'Italia è un paese meraviglioso e ha un enorme potenziale. Ha i suoi problemi e anche la Germania li ha. Sottolineo invece l'intervista al Sole 24 Ore del ministro Piercarlo Padoan, il quale ha detto, insomma, non, per la flessibilità, ha ribadito, non servono nuove regole. Ci sono già dentro il patto di stabilità gli elementi per avere maggiore flessibilità. Le priorità del semestre italiano sarà una sola, la crescita. Noi dobbiamo andare avanti con le riforme e soprattutto tornare a essere attrattivi per gli investimenti. Restiamo in Europa, dove la disoccupazione nell'area euro è risultata stabile a maggio, quindi alta, altissima, all'11,6% rispetto ad aprile. Lo ha comunicato l'Eurostat, si è registrato invece un leggero calo su base annua, dal praticamente dal 12 appunto all'11,6%. L'Italia invece ha registrato il secondo aumento maggiore sull'anno, passando dal 12,1 di maggio 2013 al 12,6 di quest'anno. Quindi la disoccupazione è aumentata nell'area euro mese su mese, ma è calata rispetto a un anno fa, tranne che in Italia, dove è aumentata anno su anno e mese su mese, e cioè è tornata a salire a maggio al 12,6%. Il record della disoccupazione femminile sfiora il 14%, non si è mai avuta una disoccupazione femminile in questo paese al 14% da quando iniziano le serie storiche, da quando le misuriamo, dal 2004. Sono 3.200.000 disoccupati, 127.000 in più rispetto al 2013, il 4% in più. Cala leggermente la disoccupazione giovanile, ma resta al 43%. Poi c'è il ministro Poletti che dice che sarebbe bello che i ragazzi d'estate facessero i lavoretti estivi per guadagnare i soldi per le vacanze, ma anche conoscere il mondo del lavoro. Assolutamente d'accordo, non è così che risolviamo il problema della disoccupazione, però è vero che nei paesi anglosassoni, ma non solo, c'è un'abitudine storica a lavorare d'estate, non tutta l'estate, per recuperare i soldi per le vacanze estive. Dice Poletti, in questo modo si può anche conoscere il mondo del lavoro. Con queste cifre sulla disoccupazione giovanile, aggiungo io, lo si può solo conoscere, lo si guarda, lo si conosce e poi se ne esce, perché qua non stiamo creando occupazione. Però è giusto il ragionamento. So benissimo, prima che mi scriviate, che molti giovani già lo fanno per necessità, ma so anche benissimo che questo paese fino a pochi anni fa era l'unico paese in cui i genitori trovavano umiliante che il figlio lavorasse per raganellare due lire o due euro per l'estate, mentre in altri paesi così non era. Sì, mi scrivete Sarkozy non ride più, ma la vicenda giudiziaria è un'altra cosa rispetto a quella famosa conferenza stampa con la Merkel. Personalmente chi vi parla lo attaccò subito, non per difendere Berlusconi ma per difendere il paese Italia, e disse insomma attenzione, cioè da questo punto di vista è inaccettabile la risatina di Sarkozy, il quale l'ha pagata sia elettoralmente, adesso anche mi sembra giudiziariamente. Molti di voi vogliono che intervenga sull'ipotesi POS, ne parleremo più avanti. Allora, è ovvio che se vediamo delle stime in cui ci sono dei costi aggiuntivi fino a 600 euro, questo è sbagliato. Allora, il meccanismo per cui la maggior parte delle spese si facciano via POS, quindi bancomato, carta di credito, lo sposiamo in pieno, perché è uno dei modi migliori per far emergere l'evasione, ok? Detto questo, da luglio dovrebbe partire una normativa che rende più vantaggioso il pagamento attraverso i circuiti internazionali o il bancomat. Nessuno vuole arricchire, almeno non chi vi parla, né le banche, né la Visa, né l'American Express o quant'altro. Va anche detto che un conto è ragionare sui costi fissi, anche se onestamente quando sento dire che a uno studio di commercialisti mettere il POS costa 150 euro, va bene, ce la puoi fare, col massimo rispetto, ma non è il problema lo studio di commercialisti con i 150 euro di POS. Il problema è capire che costi aggiuntivi comporti, ma a magari artigiani che se lo noleggeranno e quant'altro. Ma attenzione a una cosa però, perché su questo torneremo a parlarne, torneremo ad avere anche altri ospiti. Basta che, come spesso avviene in questo paese, dietro la giusta osservazione i costi fissi sono troppo alti e anche i costi di transazione, non si nasconda in realtà, e purtroppo l'abbiamo visto più volte, la reale motivazione di non far emergere quelli che sono i pagamenti, ok? All'Italia, dunque, domani c'è l'incontro governo sindacati sugli esuberi. L'Europa oggi fa sapere di essere, già da ieri fa sapere di essere preoccupata per l'ingresso delle poste. Oggi le poste italiane spiegano che non sono stati forniti dall'Italia tutti gli elementi necessari a una compiuta valutazione dell'impatto che l'accordo potrà avere sulla struttura del capitale e del debito dell'azienda. E le Poste continuano e spiegano in una nota che l'interesse delle Poste sarà legato alle sinergie industriali e commerciali da realizzare sulla logistica. Valuterà il CDA nuovi investimenti in Alitalia solo dopo un'attenta analisi dei ritorni economici e finanziari associati al piano industriale, dopo aver visto il piano industriale. Allora, mi chiedete di del collocamento in borsa di Fincantieri. Le agenzie battono a giudizio, insomma, freddo. Non sarebbe andato come sperato il collocamento in borsa di Fincantieri, principalmente a causa di un'accoglienza molto fredda da parte degli investitori istituzionali esteri. Il numero delle azioni collocate, come già abbiamo spiegato la settimana scorsa, si è così ridotto da 700 milioni a 450 milioni e il prezzo è fissato a 78 centesimi di euro per azione, ossia il livello più basso della forchetta indicata nel prospetto. Come spiegammo già la settimana scorsa, vista lo scarso interesse degli investitori esteri, il collocamento è stato dirottato verso i piccoli risparmiatori, che hanno invece risposto bene all'offerta, anche perché lì c'è un'azione gratuita ogni 20 che viene assegnata se si mantengono i titoli per almeno 12 mesi. Ai piccoli risparmiatori andranno 400 milioni di titoli e agli istituzionali solo 50 milioni, per un incasso di 350 milioni di euro, di cui appena 40 milioni dagli istituzionali. Inizialmente, quando l'offerta di pubblica partì, era stato ipotizzato un incasso di 600 milioni di euro. Fintecna, che l'azionista ha il 99% prima del collocamento, ha rinunciato quindi a mettere sul mercato parte delle sue azioni. Il debutto in borsa avviene così esclusivamente attraverso sostanzialmente un aumento di capitale. Secondo vari operatori, a penalizzare l'offerta pubblica di Fincantieri avrebbe contribuito anche l'annuncio che la società non pagherà dividendi per i prossimi 3 anni e, secondo vari analisti, una tempistica non particolarmente felice, nel senso che è un periodo di ingorgo di collocamenti in borsa, Fineco, Cerved, e anche di aumenti di capitale. Obiettivamente le banche hanno chiesto moltissimi soldi ai loro azionisti attraverso gli aumenti di capitale, penso al Monte dei Paschi, penso al Credito Valtellinese, alla Cassa di Risparmio di Genova. Due notizie in realtà buone: riparte l'industria italiana di macchine e utensili, robot e automazione. Ha avuto un brutto 2013, ma ha riconquistato la quarta posizione mondiale tra i produttori davanti alla Corea, terza fra gli esportatori. Secondo le stime dell'UCIMU, la produzione salirà del 4,4% a 4 miliardi 680 milioni, l'export farà più 4,7% a 3 miliardi e mezzo e torneranno anche i consumi interni più 3%. Invece, per quello che riguarda la ripresa nel suo complesso, oggi il direttore generale di Confindustria Marcello Panucci, in audizione al Senato sul decreto per la competitività e per le imprese, ha detto: nonostante il clima di incertezza e fragilità tra le imprese si inizia a respirare una maggior fiducia, gli indicatori di fiducia restano timidi e impongono di attuare le riforme, però vi sono. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, parliamo di come si può aiutare meglio le imprese italiane che vogliono andare all'estero, quelle che già ci sono, le piccole e medie che non conoscono delle volte nemmeno gli strumenti. La linea guida è una sola: ridurre i soggetti italiani presenti all'estero, a partire, lo dico con massimo rispetto per le camere di commercio e per le regioni, dalla presenza di camere di commercio e regioni. Far capire meglio ai consolati cosa devono fare, agli ambasciatori cosa devono fare, che il congresso di Vienna c'è già stato, visti i costi più alti della media che hanno le nostre ambasciate, e soprattutto trovare il modo per avere uno sportello unico, un'unica interfaccia che poi ti smisti ai vari soggetti che già esistono. Così fanno Germania e Francia. We'll be right back. 17:31 minuti di nuovo in diretta. Arriveremo di nuovo al tema del POS, del bancomat. Sono d'accordo che ci siano dei costi in alcuni casi troppo alti, però faccio anche notare quello che scrive un commerciante ambulante: è da 2 anni che ha il POS col GPRS, ha dei costi elevati ma ho guadagnato di più con i clienti. È il futuro, bisogna adeguarsi alla clientela, sennò a questo punto torniamo al passato. Io dico che in molti casi devono capire i commercianti, gli artigiani, i tassisti, che il bancomat o la carta di credito è un servizio che offrite ai clienti. Io personalmente spessissimo poi scelgo il taxi che ce l'ha, perché non ho contanti, perché mi serve per motivi di tracciabilità, cioè insomma, ok, per cui è un servizio. Dopodiché andiamo a vedere che non sia un servizio non troppo oneroso per voi che lo offrite e che non faccia guadagnare, diciamo, l'intermediario finanziario, ma è un servizio che offrite in più, no? E quando sempre più persone smetteranno di girare con i contanti e pagheranno con bancomat e carta di credito, forse vi convincerete anche voi, a forza di perdere corse, di perdere clienti, di perdere anche acquisti, che è un servizio in più. Adesso però ci occupiamo del commercio con l'estero e che è l'unica, diciamo, voce che sta tenendo in questo paese. Presentato questa mattina a Milano il 12° rapporto ICE Prometeia. Allora siamo in collegamento, c'era un attimo di difficoltà tecnica, con il presidente dell'ICE Riccardo Monti. Buonasera a voi. E dall'altro con il viceministro dello sviluppo economico, che ha la delega con il commercio con l'estero, Carlo Calenda. Buonasera anche a lei. Buonasera. Monti, abbiamo visto e ricordavamo come le previsioni sugli scambi globali di manufatti, quindi non di servizi finanziari per farci capire, sono previsti in accelerazione del 3,5% quest'anno e addirittura del 4,2% e del 5,5% negli anni successivi. E quindi il tasso di sviluppo torna superiore all'indice del PIL mondiale. Quindi torna anche una forte integrazione degli scambi commerciali rispetto agli anni precedenti. Come si sta attrezzando l'ICE per questo? Sì, il dato che diceva lei era assolutamente corretto, cioè c'è un'accelerazione della crescita degli scambi dovuta a una serie di driver importanti che noi come Italia e come organizzazione di promozione del commercio vogliamo cavalcare, facendo un po' meglio, un po' di più quello che abbiamo sempre fatto, quindi più promozione, più mirata verso le grandi geografie. I dati discussi oggi ci hanno indicato come i mercati consolidati sono ancora quelli che ci daranno le maggiori opportunità, specialmente in valore assoluto, quindi parliamo di Stati Uniti, parliamo di Cina, parliamo di Brasile, e soprattutto facendo promozioni più moderne attraverso il processo di radicamento sulla grande distribuzione, quindi nei grandi paesi, Stati Uniti, Germania, Cina, lavoreremo per portare il prodotto italiano sulla grande distribuzione e per farcelo rimanere con operazioni promozionali mirate. Su questo lei giustamente ricordava come ancora, nonostante il tasso di crescita più forte si abbiano nei paesi emergenti e in molti casi ampiamente emersi, però a livello di valore ancora resta l'importanza non solo dell'area euro, che per noi è un mercato interno ormai di fatto, ma di aree come gli Stati Uniti, come, diciamo, capacità di spinta. Questo vuol dire però anche ridefinire la struttura dell'ICE stesso. Sappiamo che, insomma, l'ICE ha avuto una storia travagliata, era molto criticato dagli imprenditori il vecchio ICE, io poi l'ho chiamato l'araba fenice, nel senso che siete rinati dalle ceneri del vecchio ICE. E anche qui c'è una forte domanda da parte delle imprese di un'assistenza ancora più incisiva. Voi come state pensando di riallocare le attività e l'organizzazione vera e propria degli uffici? Guardi, l'organizzazione degli uffici la stiamo riallocando in primis con delle nuove aperture su mercati importanti dove non eravamo. Negli ultimi 12 mesi abbiamo aperto Qatar, abbiamo riaperto la Colombia, abbiamo aperto Mozambico e nei prossimi mesi apriremo anche Angola ed Etiopia. Devo dire però che nel nostro lavoro dobbiamo fare mestieri diversi, geografie diverse, quindi più che chiusure e aperture dobbiamo potenziare con professionalità adeguate gli uffici e imparare anche a fare appoggiandosi a professionalità esterne. Diciamo che la cultura delle agenzie di trade promotion è quella di farsi tutto in casa, quindi piuttosto che smontare e rimontare uffici, perché ripeto c'è bisogno di noi anche nel perimetro dell'Unione Europea, l'ufficio di Berlino riceve ogni settimana centinaia di richieste di supporto, ma dobbiamo imparare a fare mestieri diversi, geografie diverse, dobbiamo potenziare le aree nuove con le professionalità adeguate, quindi stiamo lavorando, come dicevi, il suo Calenda, anche in questa ottica per fare alcuni progetti in cui non ci sia un ruolo centrale operativo dell'ICE, ma l'ICE diventi in qualche modo il committente del lavoro che fanno anche soggetti esterni. E adesso arriviamo con il Vice Ministro all'attività di coordinamento, però un'ultima domanda, Presidente Monti, Riccardo Monti, da questo punto di vista, per mia esperienza personale, ma insomma in generale quello che sentiamo anche dire dagli imprenditori, c'è poi c'era un forte elemento di componente umana nell'ICE, cioè c'erano uffici che funzionavano benissimo, io ne ricordo personalmente uno, era quello di Shanghai, anni fa, e uffici che funzionavano male. Allora, questo capita in tutte le famiglie, per carità. La differenza è che nel privato tu puoi muovere le persone, hai una certa capacità di dire bene, tu rientri in Italia e metto un'altra persona. Nel pubblico questo rappresenta un elemento di maggiore rigidità? Beh, allora l'ICE è un'attività fondamentalmente professionale, quindi per definizione la rilevanza della qualità personale è molto forte rispetto al sistema. Questo tema che lei citava è assolutamente centrale nel lavoro di riorganizzazione che stiamo facendo e stiamo lavorando. Io personalmente mi sto impegnando gran parte del mio tempo in un processo di snellimento dei processi interni e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro che ci permetta di lavorare in un'ottica più moderna e, fatemi dire, più privatissima. Quindi anche spostando le persone? Assolutamente sì, è una delle grandi priorità che abbiamo, che con Vice Ministro Calenda riusciremo sicuramente a smarcare nei prossimi mesi. Allora, Vice Ministro, io lo ricordo a tutti, lei è stato ai tempi della presidenza di Montezemolo in Confindustria il grande organizzatore, oltre che averne la delega, di tutti quei percorsi di internazionalizzazione che poi sono passati sotto il nome di missione di sistema, in cui, avendoli seguiti noi, sia personalmente che come giornalisti di Radio 24, devo dire che funzionavano, c'erano decine e decine, se non centinaia di imprese, c'erano i ministri del governo italiano, c'erano i banchieri delle principali banche italiane, c'era la Confindustria, e riuscivi a presentarti in India piuttosto che in Cina con un'immagine di paese forse anche più sistemica di quello che non sia in realtà. Però, insomma, quello funzionava. Lo dico perché lei ha vissuto tutte le esigenze delle imprese, grandi ma soprattutto medie e piccole, dal punto di vista di Confindustria e quindi di chi le rappresenta. Adesso lo vive dal punto di vista del governo. Lei sa meglio di me che la critica più forte di carattere strutturale è la seguente. Uno ha in questo paese la SACE, la Siemens, fanno cose diverse, l'ICE, poi le camere di commercio che hanno sedi all'estero, poi ci sono le regioni che hanno sedi di rappresentanza all'estero, poi c'è il Ministero degli Esteri con i consolati e le ambasciate. Gli imprenditori chiedono una sola cosa, lo sportello unico Italia, come avviene già in Germania, cioè che uno, se deve operare in India o in Vietnam o in Brasile, va nello sportello unico dove dentro troverà tutte le varie strutture, non ne voglio ridurre, annullare, ma diciamo in un unico, anche non dico luogo fisico ma quasi, perché poi impazziscono nel non sapere a chi rivolgersi e a mio avviso si disperdono anche energie. Si arriverà allo sportello unico Italia, che serve ai nostri imprenditori ma potrebbe servire anche agli imprenditori di quel paese che volessero investire in Italia? Ma dunque, lo sportello unico fu un'operazione che si tentò negli anni scorsi e, come spesso succede in Italia, aggiunse un livello, cioè perfetto, c'era un signore in più che si chiamava sportello unico. Questa cosa qui non va fatta, come è ovvio. Noi le due cose che stiamo facendo sono, prima di tutto, definire chi si deve occupare di internazionalizzazione e chi non se ne deve occupare per nulla. Esempio, nella riforma del titolo quinto, l'internazionalizzazione, la proposta è toglierla alle regioni. Le regioni sono importanti sul tema di attrazione degli investimenti quando devono accogliere un investimento sul territorio, ma nell'export devono starci il più lontano possibile. Secondo, le Camere di Commercio. Le Camere di Commercio hanno anche lì dei ruoli che possono servire, sono utili nella formazione delle imprese, ma che vadano a aprire uffici all'estero è risibile. Questa è una delle ragioni che ispira il taglio del contributo alle Camere di Commercio, in maniera che non abbiano più soldi da investire in iniziative che aggiungono solo confusione e non valore. E questo è il primo pezzo strutturale. Poi ci sono ICE, Siemens e SACE che fanno lavori diversi. L'ICE fa la promozione e l'assistenza alla promozione alle imprese, la Siemens si occupa degli investimenti all'estero e la SACE fa l'assicurazione alle esportazioni, che sono mestieri necessariamente diversi, fatti con professionalità diverse. Questo non vuol dire che tutti e tre debbano essere uno più integrati possibile nella rete delle ambasciate, cosa che oggi l'ICE largamente è, e in secondo luogo debbano essere coordinate le politiche, che vuol dire che se tu decidi di scommettere su un paese, per esempio il Mozambico, su cui adesso noi stiamo facendo un lavoro molto dedicato, molto importante, devi coordinare le politiche delle tre strutture. L'altra cosa che stiamo facendo è andare in giro per l'Italia, provincia per provincia, a presentare questi servizi, perché le imprese, le piccole e medie imprese, non sanno neanche che servizi sono disponibili, che nessuno glieli va a presentare, si aspettano che in qualche modo queste strutture aspettano che le imprese arrivino, e questo è sbagliato. Questo lo facciamo una volta al mese. Fino ad oggi questo tipo di incontri ha avuto il 95% di soddisfazione del cliente imprenditore, così le imprese sanno dove possono andare e su che servizi possono contare. Ecco, Vice Ministro, dunque lei, abbiamo capito che le regioni, le camere di commercio devono stare fuori, e chi vi parla è solo che contento, poi è un'opinione personale, ma insomma abbiamo raccontato per anni di missioni, non tutte, alcune regioni sono andate a fare delle cose anche serie, però in generale era un modo per fare un weekend fuori porta, spesso o per giustificare altro tipo di attività, e così come sulle camere di commercio nulla in contrario, però attenzione, si rischia la duplicazione su tutto. Lei ha ragione a ricordare che anche in altri paesi, la Francia e la Germania sono, diciamo, i nostri modelli, SACE, Simest e ICE, cioè chi fa assicurazione sul credito, chi fa agevolazione, chi fa promozione, sono separati. La differenza vera è che però lì c'è un coordinamento sistemico, come lei diceva, insomma, se si deve puntare su un paese tutti e tre si muovono all'unisono, un po' come una squadra di calcio. Non è forse il periodo migliore per parlare di calcio in Italia? Il processo è questo: noi abbiamo una volta l'anno chiamiamolo un consiglio di amministrazione dell'internazionalizzazione, che riunisce ministeri, governo, del governo, riunisce l'associazione industriale e queste tre agenzie. Si fa un punto sulle priorità, mercato e azioni da portare avanti, gli obiettivi. Dopodiché le singole iniziative vengono condivise con le associazioni di settore, perché la nautica sa meglio di chiunque altro cosa serve alla nautica, e così per l'arredamento eccetera. L'ICE le porta avanti e ogni iniziativa è monitorata da un'analisi di soddisfazione cliente, cioè al termine di ogni iniziativa c'è un'analisi di soddisfazione cliente che ci dice dove siamo bravi, dove siamo meno bravi, dove dobbiamo cambiare qualcosa. Questo è un processo che è stato messo ormai in piedi a regime, che consente da un lato il coordinamento e dall'altro di monitorare e verificare i profili di miglioramento di queste strutture, che continuano a essere molto significativi e su cui bisogna lavorare con un lavoro molto certosino processo per processo. Mi dica ancora due cose, Vice Ministro, per quello che riguarda la proposta arrivata ieri da Torino, taglio dell'IRAP sulle aziende esportatrici, l'hanno fatta sia Sergio Marchionne che Oscar Farinetti, e quindi insomma le aziende che sono particolarmente vocate all'export avranno un vantaggio fiscale, chiaramente non per delocalizzare, l'abbiamo detto più volte, ma per internazionalizzare, che è un'altra cosa. Vedo già dei messaggi: attenzione, se vuoi vendere in certi mercati devi produrre in quei mercati, per tanti motivi logistici, di costo e anche di gusto. Altra cosa è dire che sposti tutta la produzione in un mercato che si chiama delocalizzazione. E attenzione, perché molte volte le imprese italiane sono sopravvissute in questi anni perché avevano stabilimenti che producevano per mercati esteri, perché se no con i consumi interni nostri erano già chiuse. Comunque, vantaggio fiscale per chi esporta? Sì, intanto vantaggio fiscale per chi esporta, non per chi investe all'estero, che sono due cose diverse. Premesso che io non ho assolutamente nulla di contrario, e penso, come ha detto giustamente lei, che bisogna spesso andare a investire all'estero per coprire un mercato. Ma in secondo luogo, questa è una proposta che peraltro Marchionne ha fatto da diversi governi fa, diciamo, e che va presa in considerazione perché consente di accelerare e aumentare il numero delle imprese che esportano, che è un problema chiave dell'Italia. Il punto della questione, che è complesso, riguarda il fatto che le sovvenzioni, tra virgolette, alle esportazioni sono in parte vietate da trattati internazionali, e quindi c'è un profilo di attenzione su come strutturare un provvedimento di questo tipo, che però, per quanto mi concerne, potrebbe essere un provvedimento di grande utilità. Quindi ci siamo lasciati con Marchionne sul fatto che ci saremmo rivisti prestissimo, saremmo andati attraverso non solo la struttura del provvedimento ma l'entità della copertura richiesta. Io però, in ordine, diciamo, al provvedimento generale, penso sarebbe un ottimo provvedimento. Ecco, chiudiamo sul sugli aiuti di Stato, diciamo così, visto che lei citava il rischio appunto di normative che non che eliminano o sostanzialmente impediscono agevolazioni statali alle imprese. E l'Unione Europea si sta interrogando sull'entrata delle poste nel capitale di Alitalia. E già più volte su Alitalia ha detto: beh, vediamo anche con Etihad che mantenga la quota inferiore al 50%. Come giudica questo intervento? Perché, nel senso, correte il rischio che l'entrata delle poste italiane nel capitale diventi aiuto di Stato? Ma guardi, io francamente mi sentirei di escluderlo. Aggiungo anche che questa è una soluzione pienamente in linea con quelli che sono i parametri sul controllo stabiliti dalla Commissione. È un player fondamentale che portiamo ad investire in Europa, non solo in Italia, che darà molto respiro alle nostre tratte internazionali. Io, guarda, francamente, ma lo dico con massimo rispetto, vorrei un'Europa che si occupasse un pochino più della crescita, un po' meno della dimensione dei cetrioli e delle, come posso dire, di tutti quelli che sono impedimenti e interpretazioni restrittive che hanno uno spirito contrario alla crescita per definizione. Questo non toglie ovviamente che noi risponderemo punto su punto nel merito delle questioni, c'ha tutta la titolarità per farlo, ma lo ripeto, è un'operazione che secondo me ha tutti i crismi del rispetto delle regole, che il ministro Lupi ha portato avanti con grande abilità e attenzione, e non vedo nessuna criticità tranne quella purtroppo di dover ristrutturare l'Italia, e questo sarà anche faticoso dal punto di vista di posti di lavoro, ma è l'unico modo per far ripartire, per avere una compagnia di bandiera efficiente, che per un paese che vive di export e turismo francamente mi sembra fondamentale. Guarda, d'accordissimo che l'Europa è il nostro cavallo di battaglia, si occupi più di crescita e meno di cetrioli, tanto di cetrioli qua ne abbiamo in abbondanza. Grazie al presidente dell'ICE Riccardo Monti, grazie al vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Arrivederci. Allora, adesso arriviamo anche al POS. Vedo vari messaggi, addirittura c'è uno che dice che ho fatto un'operazione di promozione per Fincantieri, ma veramente non mi sembra proprio. Abbiamo raccontato che c'è stata un'accoglienza più che fredda da parte degli investitori istituzionali, e poi abbiamo raccontato che la raccolta era la parte più bassa prevista, come il prezzo dell'azione, che molti analisti hanno detto che forse il periodo non era dei più fortunati per gli aumenti di capitale bancari, per altri collocamenti in borsa, insomma, e per la mancanza del dividendo per 3 anni, non mi sembra. Abbiamo raccontato, come sempre facciamo, né contro né pro, in questo caso Fincantieri, quello che vediamo in un senso e nell'altro, perché poi si lamentano da un lato e si lamentano dall'altro. Adesso però traffico. Ovunque sia il tuo business, qualità nella gestione dei tuoi crediti. Assicom Global Credit Care vi presenta Strade in diretta. La 13 Bologna-Padova è stata chiusa per un incidente nel tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di circa 3 km. Sono coinvolti 3 auto e 2 camion. Altro incidente a Roma sul grande raccordo anulare, automobilisti incolonnati tra Anagnina e Ciampino in carreggiata interna. C'è un incidente anche sul tratto Campano dell'Autosole, 3 km di coda tra la 16 Napoli Canosa e la diramazione per Capodichino in direzione Napoli. Siamo adesso sulla 4 Brescia-Padova, code di circa 4 km tra Soave e Verona Est in direzione Brescia per un veicolo in fiamme, i vigili del fuoco hanno però già spento l'incendio. Infine sul raccordo Sistiana-Trieste, automobilisti in fila per un incidente tra mezzi pesanti tra Prosecco e Sgonico in direzione Monfalcone. È tutto, a più tardi. Focus Economia. Allora, parliamo di tasse, bello argomento, perché? Perché da oggi scatta la tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26%, con l'unica eccezione dei titoli di Stato italiani. Vedo che molti mi scrivono ancora sul post. Allora, la cosa strana di questa legge è in primo luogo che non c'è nessuna sanzione prevista. Allora, vuol dire, scatta l'obbligo ma tu non hai nessuna sanzione. Dopodiché, a chi mi fa ragionamenti medievali, ce l'abbiamo ancora un fiorino, Benigni Troisi, sul bang, lo Stato che ti controlli, dove potrai essere libero di scegliere. Oh, nel resto del mondo sviluppato, vai in America, vai in Gran Bretagna, prova a pagare qualcosa senza banco, ma toccata di credito in contanti, ti guardano come se fossi un evasore. Per cui non mi dite che se facciamo una cosa del genere, se introduciamo e spingiamo per l'aumento dei pagamenti elettronici, stiamo creando il Grande Fratello. Sono balle di chi vuole difendere qualcos'altro. Se no dovete dirmi che Svezia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania sono tutti paesi retrogradi, va bene? Quindi, e siccome questo è il paese che ha la più alta evasione fiscale dell'Europa, il sospetto nasce. Detto questo, però, è ovvio che non ci deve essere un carico per il cliente in primo luogo, perché molti mi scrivono che alcuni stanno iniziando a proporre: se paghi col POS mi devi dare una cifra in più, e questo non si può fare. Ed è chiaro che occorrerebbe anche una sanzione, se no che legge stai facendo? Nessuno vuole avvantaggiare le banche, questo sarebbe sbagliato, e quindi andare a rivedere anche alcuni costi fissi. Però vediamo solo Rebecco, ma ha scritto uno che ce l'ha e fa l'idraulico, lui usa il POS mobile, dice che insomma arrivare a 600 euro in un anno di più di costi è praticamente impossibile, purtroppo adesso l'ho perso. La Confesercenti stima per una PMI con 50.000 euro di transazioni l'anno un costo di 1.700 euro in più l'anno, 600 euro in più per i commercianti, mi sembrano le cifre molto così. Addirittura 5 miliardi di colpo tra costi di esercizio e commissioni, secondo la Confesercenti. Allora, da luglio, se ben ricordo, me lo chiedo a Marco, a Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera Giovanni. Sera. Da luglio dovrebbe arrivare anche una norma che rende più conveniente l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e, diciamo, bancomat e quant'altro. Poi arriviamo invece alla tassazione sull'ente finanziario. Giovanni. Certo, sicuramente c'è un inquadramento europeo della disciplina dei pagamenti elettronici che consentirà appunto di alleviare i costi che esistono appunto per i contribuenti. Intanto appunto l'obbligo scattato ieri, come hai giustamente ricordato tu, un obbligo senza sanzioni, quindi non comporta assolutamente nulla per chi non si dovesse dotare. Mm. Ricordiamo che è un obbligo che scatta dai pagamenti a partire da 30 euro, quindi insomma anche le microprestazioni non dovrebbero essere pagate. No, ma poi c'è un problema, adesso ripeto, nessuno vuole arricchire le banche né caricare sui clienti, però scusate, tu in questo caso sei obbligato davvero, cioè se io entro nel tuo negozio o in un altro tipo di attività e dico vorrei pagare col bancomat o con la carta di credito perché non ho i contanti in quel momento, perché non ho, per fatti miei, tu non mi puoi rispondere no, non ce l'ho, questo prevede la legge, purtroppo non c'è una sanzione, tu mi devi rispondere sì, ce l'ho. Ok, dopodiché se io voglio pagare con un assegno posso pagare con un assegno, cioè, però l'obbligo è ad avere questo strumento per i pagamenti superiori ai 30 euro. Certo, se entro e dico vorrei 4 caramelle e pago con la carta di credito, faccio notare che in Gran Bretagna e negli paesi del nord Europa si può pagare anche una Coca-Cola al bar con la carta di credito. Comunque, quindi non c'è neanche il limite dei 30 euro. Okay, provare per credere, paghi anche un hamburger da 3 euro con la carta di credito. Per cui, cioè, di cosa stiamo parlando? C'è sempre una parte del paese, ecco, e poi il problema è sempre qualcos'altro, sono i grandi evasori, e beccheremo anche, vanno beccati anche i grandi evasori, ma questo non vuol dire che tu non devi offrire un servizio al cliente, non mi puoi più rispondere, però no, non ce l'ho, oppure guardi temporaneamente fuori servizio, ahia, mi si è rotto, ho finito il rotolino della carta, volete l'elenco delle scuse che ho ricevuto io in questi anni, visto che per lavoro pago sempre con la carta di credito e anche non per lavoro. Allora dai, Parente invece domani Sole esce con una guida completa di 16 pagine su tutti i dettagli della nuova tassazione sulle rente finanziarie. Assolutamente sì, cioè, insomma, per tutti i gusti da questo punto di vista. Spieghiamo quali sono gli effetti dell'aumento della tassazione delle rendite finanziarie che è scattato oggi. Quindi ricordiamo, tassazione che passa dal 20 al 26%, misura che era contenuta nel decreto IRPEF, tanto per intenderci quella degli 80 euro. È assolutamente caratterizzante nell'ambito della tassazione delle rendite finanziarie che nell'arco di soli 2 anni e mezzo il prelievo fiscale si sia più che raddoppiato. Infatti si è passato dal 12,5% 35% fino alla termine del 2011, appunto al 26% che scatta oggi. Sicuramente tra i tanti effetti, oltre a quello di penalizzazione dei risparmi degli italiani, c'è anche un problema lato imprese, perché questo può rendere meno attrattivo le emissioni e la partecipazione al capitale azionario da parte delle imprese. Quindi c'è anche un rischio da non sottovalutare da questo punto di vista. Domani però spieghiamo tutte quante le opzioni possibili, anche quelle che tecnicamente si chiamano per l'affrancamento, quindi in quel caso si può ancora optare per utilizzare appunto delle minusvalenze per cercare di ridurre il prelievo fiscale, insomma negli ambiti che sono consentiti dalla legge, e spieghiamo appunto tutti i dettagli e che cosa cambia appunto per risparmiatori e investitori. Veramente incredibile, di nuovo in diretta chiaramente con Sebastiano Berisoni, la reazione di molti commercianti. Non lo metterò mai il post, allora poi però basta, è sbagliato che vi siano costi molto così alti. Infatti da luglio vedremo come sarà e come sarà scritta, entrerà in vigore una normativa che dovrebbe agevolare i pagamenti con carte elettroniche, chiamiamole così. Scrive giustamente un ascoltatore: ma perché le Poste italiane non forniscono un servizio a costo basso che diventi da benchmark per tutti gli altri? Benissimo. Scrive un ascoltatore che è uscito ora da uno studio di ingegneria, non aveva il POS, non lo mette perché non è obbligatorio. No, il POS è obbligatorio, purtroppo non c'è nessuna sanzione, ma quello che prevede la legge è che per i pagamenti superiori ai 30 euro non ci si possa più sentire dire no, mi scusi, non ce l'ho. Ok? Allora, da questo punto di vista io non capisco. Allora, ha ragione chi dice che manca la seconda gamba della cosa, perché è ovvio che poi se chi fornisce un'opera, l'idraulico, ma non ce l'ho con gli idraulici, l'elettricista, ti dice sono 100 euro se paga con la carta e sono 80 se paga in nero, non usciamo dal problema. Finché non vi sarà il contrasto all'evasione fatto con un vantaggio anche per il cliente, siamo d'accordo su questo. Ma veramente non capisco l'obiezione, una volta che abbiamo detto che vanno ridotti i costi di gestione di questa cosa, ma non capisco l'obiezione che non può essere sui 160 euro del costo della macchinetta e POS, di molti che scrivono. Non la voglio capire, diciamo così, perché sennò mi viene un altro sospetto. La borsa oggi, vi dovete accontentare di me, più 1,30% Milano, più 0,80% Parigi, più 0,70% Francoforte e Londra, più 0,90%, molto bene il Monte dei Paschi, dopo che ha ripagato parte dei Tremonti Bond, e per quello che riguarda i 3 miliardi e 2 di Tremonti Bond, più 8,55% il titolo. Ancora molto bene UbiBanca, più 4,70%, devo dire che sono in recupero oggi tutte le banche dopo 7 giorni consecutivi di calo in borsa. 3 miliardi e 4 rimborsato per la precisione del Monte dei Paschi di Monti Bond, e tra l'altro Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, ha detto che la vendita delle azioni rimaste inoptate è già tutta terminata. Lo 0,15% di azioni optate sono state vendute in meno di un'ora questa mattina. La soddisfazione maggiore però, ha aggiunto Viola, è aver versato 3 miliardi 455 milioni allo Stato italiano, soddisfazione sia come Monte dei Paschi che come cittadino italiano. Ribalza anche il Banco Popolare, ieri tra i peggiori, più 3,5%, bene la Popolare Emilia Romagna, più 3,90%, e poi sui titoli non bancari segnalo G-Tech, più 4,26%, ST Microelectronics, più 4,20%, ancora Fiat, più 3,30%, come Mediolanum, Intesa San Paolo, più 2,90%, Unicredit, più 2,5%, Azimut, più 2,20%, come World Duty Free, Pirelli, più 2%, TOZ, meno 1,90%, Luxottica, meno 1,20%, Campari, meno 1,20%, e Telecom Italia, meno 0,90%. Restiamo in tema di costi impropri di sistema, perché noi paghiamo da sempre l'assicurazione RC auto più alta della media europea, e più alta di tanto, non dico il doppio ma ci arriviamo vicini. Oggi si è tenuta l'assemblea annuale dell'ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ossia 235 imprese con quasi 48.000 dipendenti. È in collegamento con noi il presidente Aldo Minucci. Buonasera. Buonasera. Allora, voi avete diffuso dei dati, nel 2012 il volume dei premi ha superato i 110 miliardi, però venendo all'anno scorso, se ho ben capito, c'è stato un calo del premio medio della copertura RC Auto, ma anche un aumento dei veicoli senza polizza? No, le due cose sono distinte. Intanto c'è stato un calo della raccolta dei premi danni auto come conseguenza del fatto che, siccome sono calati i prezzi, a partire dal secondo semestre del 2012 sono cominciati a calare i prezzi delle coperture assicurative, e questo si è tradotto in una diminuzione dei premi raccolti, anche perché non c'è nessun incremento di parco macchine assicurate. L'altro aspetto invece è legato al fatto che, anche se non sono dati puntuali e precisi, siamo intorno a una valutazione stimata tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di veicoli non assicurati, che in particolare caratterizza zone e aree del paese, in parte conseguenza della crisi economica che sta accentuando questi fenomeni, in parte conseguenza del fatto che i prezzi dell'auto in questo nostro paese sono più alti degli altri paesi, e questo elemento evidentemente induce alla non assicurazione. Quindi insomma 3 milioni e mezzo quasi di veicoli, sono l'8% che è la vostra stima del parco circolante, non assicurati, un dato in aumento visto che voi stimavate nel 2012 3 milioni e 100, quindi sono 400 mila in più, una percentuale che supera il 13% nel sud, al nord scende al 5%, al centro all'8%. Ecco, su questo lei però parlava anche dei prezzi della RC Auto. Voi avete fornito dei dati in cui il prezzo è calato nei primi tre mesi di circa il 6%, cioè a marzo 2014 dovrebbe essere più basso di un 6% rispetto a marzo 2013, e complessivamente, sempre come riferimento a marzo 2014, il prezzo medio della copertura prima delle tasse è di 410 euro, 40 euro in meno rispetto al 2012, cioè in due anni è sceso di circa il 10%. Però l'autorità di vigilanza, l'IVAS, per voce del suo numero uno, Salvatore Rossi, ha detto 5 giorni fa, attenzione, il problema dei prezzi alti delle polizze RC Auto dopo tanti anni è ancora irrisolto. Solo il 5% paga un prezzo paragonabile a quello medio europeo, che è di 250 euro. Il 95%, e voi lo confermate, insomma, se la media è 410 euro, è ampiamente sopra la media europea, Presidente. Che i prezzi dell'auto in Italia sono più alti dei prezzi, prezzo medio in Italia è più alto dei prezzi praticati nei quattro paesi più importanti che per noi sono il mercato francese, tedesco, spagnolo ed inglese. Quindi noi non abbiamo mai messo in discussione questo elemento. Quello che abbiamo sottolineato e cercato di mettere in luce quali sono le cause che determinano questo fattore, che non dipende dalla cattiva volontà o dell'ingordigia delle imprese di assicurazione, ma è causato da elementi specifici che riguardano tre cause fondamentali che diversificano la situazione italiana rispetto a quella di questi quattro paesi, e come è stato messo in luce da uno studio internazionale che abbiamo fatto fare ad una pregiata società di consulenza. Quali sono queste tre cause? Innanzitutto, il costo dei sinistri in Italia, sì, è più alto del costo dei sinistri derivanti da lesioni gravi, in particolare negli altri paesi. A parità di sinistro? A parità di sinistro e in qualche misura a parità anche di situazione di mercato, non ci sono grandi differenze sotto questo profilo. Perché questo succede? Perché in particolare in Italia da ormai oltre 8 anni, 9 anni è inevaso un obbligo del testo unico dell'assicurazione che imponeva l'approvazione delle tabelle di valutazione del cosiddetto danno biologico derivante da lesioni gravi. in Italia non c'è nessun riferimento normativo sotto questo profilo, anche se ci sarebbe l'obbligo di, il governo aveva l'obbligo di farlo, ed è lasciato alla discrezionalità soggettiva dei giudici. Questo elemento favorisce significativamente un contenzioso particolarmente rilevante, perché è di tutta evidenza che per alcune categorie di professionisti la presenza di un contenzioso rilevante vuol dire garanzia di attività. Cioè gli avvocati? Gli avvocati, certamente. Noi abbiamo detto che questo elemento non può più essere eluso, dobbiamo assolutamente provvedere a questo tipo di emanazione delle tabelle, tenuto conto che questo processo, l'iter, diciamo, governativo, si è esaurito dopo essere stato approvato da 4 ministeri e ha avuto anche parere positivo del Consiglio di Stato. Era giunta la firma finale già davanti al governo Monti, inopinatamente, per le proteste di vittime della strada supportate da avvocati e associazione degli avvocati, il provvedimento si è bloccato. Se passasse già solo questo tipo di norma, riusciremmo a immediatamente a far diminuire i prezzi dell'auto del 3%. Dell'RC auto. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui si sacrifica, diciamo, gli interessi non particolarmente alti di 40 milioni di assicurati auto per tutelare gli interessi di 100.000-150.000 avvocati. Queste sono le scelte che la politica deve fare, ed è il primo motivo. Il secondo motivo che determina è questo, diciamo, questo dato su 180 euro, che è la differenza media tra il costo italiano in più rispetto agli altri paesi, 100 derivano da questa situazione. Quindi eliminare questo comporterebbe eliminare una componente fondamentale, questa sui danni patrimoniali, per non patrimoniali delle lesioni gravi. La seconda componente fondamentale è costituita dal elemento gravissimo che esiste nel nostro paese di frodi, e qui soprattutto in particolari aree del paese, che è quello che poi incide fortemente su. Ma dove? Faccia i nomi. Ma la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Puglia, queste sono le regioni che sono caratterizzate fortemente da questa presenza delle frodi. Dopodiché le dico anche che le frodi non è un meccanismo che è riservato solo, perché poi la diffusione dell'ambiente delinquenziale nel nostro paese va anche in altri paesi e in altre aree, ma diciamo che lì, in quelle aree, è macroscopico. Con la doppia ingiustizia che poi chi abita in quelle aree del sud ed è un cittadino onesto ha dei pagamenti altissimi a causa anche dei disonesti, oltre che tutto il sistema italiano. Quindi siamo anche noi gli artefici dei nostri mali. Di nuovo in diretta con il presidente dell'Associazione delle Assicurazioni Italiane, Aldo Minucci. Allora, lei ci ha citato 4 regioni in particolare. Un quarto dei sinistri denunciati al sud, secondo la vostra ricerca, è risultato sospetto, come il 40% delle partite relative ai danni alla persona. Cioè, ogni volta che si fa un incidente al sud, nel 40% dei casi c'è un danno alla persona? Ci sono dei dati statistici così discrepanti tra le regioni del nord e le regioni del sud, che è evidente che dietro c'è questa maggiore presenza. Cioè, diciamo, un tamponamento da dietro non può portare quasi sempre a un colpo di frusta al sud e quasi mai al nord. Posso esagerare in questo modo? Sì, adesso il problema dei colpi di frusta, no, ma era una battuta, fortuna, diciamo. Era già nel passato, adesso si è ridotto molto perché c'è stato un cambio positivo normativo che ha preteso che per la risarcibilità dei colpi di frusta ci vuole un accertamento strumentale, non andare dal medico, oddio come sto male con la testa per 3 giorni. E questo ha immediatamente comportato una riduzione drastica di questi colpi di frusta, per miracolo, e certo, ha migliorato quindi il costo dei sinistri. Dobbiamo fare la stessa cosa con riferimento a queste altre tipi di ipotesi, ma ovviamente e nel decreto del famoso articolo 8 del decreto destinazione Italia, decreto legge, erano state prese su proposta del governo tutta una serie di iniziative di norme che in qualche misura incidevano positivamente sulla diminuzione delle frodi, che voleva dire fare sì che i testimoni devono essere presi soltanto quelli che si dichiarano al momento dell'incidente e non accettarli 4 mesi dopo, 5 mesi dopo, perché favorisce queste sospette intrusioni della malavita. C'era un meccanismo fondamentale che ritardava i tempi del pagamento del sinistro giuridici per le imprese quando c'erano degli elementi oggettivi di sospetto di frode. C'era un meccanismo per cui si dava valore sostanzialmente ai dati risultanti dalle black box anche ai fini giudiziari. C'era infine finalmente statuire il divieto di cessione del credito del derivante dal risarcimento, quindi da un sinistro, perché questa ipotesi ovviamente il povero assicurato cede il proprio sinistro, si fa attrarre dai quattrini pronti e subito e questo fenomeno poi messo in mano carrozzieri, avvocati o altre categorie determina una lievitazione del costo del sinistro. Tutti questi elementi riducevano il rischio delle frodi. Inopinatamente, come lei sa, è stato stralciato da questo decreto destinazione Italia questo articolato e quindi nulla è cambiato. No, io lo dico perché nonostante i messaggi che ricevo, noi non siamo mai stretti teneri con le compagnie di assicurazione, abbiamo raccontato le accuse che avete ricevuto negli anni passati dell'antitrust, ma non solo, di cartello e quant'altro, però oggettivamente in questo caso la differenza, poi ci sarà sicuramente qualche suo associato che aumenta i margini, no, adesso però obiettivamente il fatto che ci siano queste discrepanze regionali, cioè sarebbe quasi più accettabile se questa incidenza dei sinistri e dei danni con danni alla persona e comunque dei sinistri in generale fosse uguale in tutto il paese, invece vedere che ci sono discrepanze enormi tra il nord, il centro e il sud, ti lascia pensare che ci sia anche una componente molto forte di frode. Voi, tra l'altro, per la metà dei sinistri denunciati dal sud, per quasi la metà, il 42%, avete predisposto, cioè quando sono stati predisposti ulteriori accertamenti, in un quarto dei casi si sono chiusi senza seguito, a dimostrazione che appunto non c'erano gli elementi. Però oggi il ministro Guidi, che è intervenuta alla vostra assemblea, ha detto che i costi sono insostenibili per molte categorie, il nostro impegno per arginare il fenomeno delle frodi sarà fortissimo. Vi ha dato qualche rassicurazione sulla legge? No, intanto la ministra Guida ci ha dato intanto un attestato di credibilità, perché ha riconosciuto valide tutte le argomentazioni e in particolare le proposte che noi abbiamo presentato per ridurre i diversi fenomeni. Ci ha dato anche il suo fortissimo impegno a intervenire su questi elementi, a riprendere quindi il tavolo di lavoro per riesaminare queste problematiche in maniera di arrivare al massimo entro anno ad una soluzione di una riforma dell'auto particolarmente attesa e positiva per gli assicurati. Certamente noi non ci nascondiamo, non è che dipende solo dal ministro. Per esempio l'approvazione delle tabelle è una cosa su cui il ministro condivide, bisogna che ci sia una volontà comune da parte del Consiglio del Ministro, in particolare una decisa presa di volontà da parte del Presidente del Consiglio nuovo che le tabelle per i riferimenti ai danni alla persona secondo le categorie professionali, cioè se io sono un giornalista, un danno, ci deve essere un riferimento, altrimenti, come lei spiegava, parte il contenzioso legale che arricchisce gli avvocati e aumenta i costi del sistema. Posso... Sì, perché questo, avere un quadro normativo di riferimento come esiste in altri paesi, per esempio in Spagna è tutto dettagliatamente... Sì, ma è quello chiaro, c'è una cosa che chiedono gli ascoltatori su cui vorrei concludere però. Se vi sono differenze regionali così forti, però noi possiamo anche, vediamo anche che ci sono regioni, penso soprattutto al nord, che hanno incidenza di sinistri con danni e quindi di quello che voi sospettate dove possa entrare la frode molto molto più bassa. Perché lì le polizze RC Auto non sono equiparate alla media europea? perché ci sono delle altre componenti, come le dicevo prima, la frode è una di queste componenti. Però ho capito. L'altra componente. Ma dovremmo vedere delle polizze molto molto più basse al nord. Ma il costo di sinistra incide particolarmente, la componente più alta e la terza componente, che io non le ho detto, è costituita dal fatto che le imposte che gravano sulle polizze di assicurazione nel nostro paese sono più alte di quelli degli altri paesi europei. Infatti, perché su 100 lire di cosiddetto premio puro ce ne sono 26 ulteriori che sono contributo al Servizio Sanitario Nazionale e 16, di cui 16 è l'imposta di assicurazione e 10 è il contributo sanitario. Sì, Presidente, guardi, su questo punto lei non mi ha esattamente convinto, però la ringrazio, grazie al Presidente dell'ANIA Aldo Minucci. Un'ultima nota, poi chiudiamo. Guarda che la legge non ha previsto l'obbligo di pagare, torniamo sul POS e sulle carte di credito, l'obbligo di pagare sopra i 30 euro. C'è chi mi ha scritto, ma a me se la banca me l'ha levato. No, prevede l'obbligo delle categorie professionali ad averlo, cioè la facoltà che io possa pagare in quel modo. Quindi a chi mi dice lei non è un liberale, vuole che lo Stato sappia tutto quello che faccio io, non è questo. Non c'è l'obbligo a pagare col bancomat o con la carta di credito sopra i 30 euro, c'è l'obbligo per chi ha, per le categorie previste, ad averlo. Quindi se io vado e dico ho bisogno di pagare con la carta di credito col bancomat, non mi può rispondere non ce l'ho, perché hai l'obbligo ad averlo, poi io posso pagare come voglio, ok? Tutto il resto è pretestuoso. Ci risentiamo domani. 349-238-6666 per gli sms. Da Sebastiano Brigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.